Corsa 24, i gialli della storia. Martedì 19 aprile 2005, ore 17:55, l'ora della fumata dalla Cappella Sistina. Ma è bianca o nera? Alle 18:04 le campane di San Pietro suonano a festa, seguite dai campanili di tutta Roma. Il mondo ha un nuovo Papa. Al quarto scrutinio i 115 cardinali hanno eletto il successore di Giovanni Paolo II. Liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Il cardinale Joseph Ratzinger, l'uomo che per 24 anni ha occupato uno dei posti più importanti, ma anche più scomodi della Chiesa Cattolica, dal 19 aprile del 2005 è stato il 265esimo pontefice di Roma. E il 16 aprile Ratzinger compie 90 anni. Nella puntata di oggi di Mix 24, Benedetto XVI parla di sé, della sua famiglia, delle sue convinzioni, delle sue strategie. E per completare questo racconto approfitteremo anche dei commenti del giornalista Gianfranco Sviderkowski e della scrittrice Alessandra Borghese. Lunedì 18 aprile, ore 16:30, ha inizio il conclave. Una solenne processione formata dai 115 cardinali elettori fa il suo ingresso nella Cappella Sistina. È qui che, isolati dal resto del mondo, i porporati eleggeranno il successore di Karol Wojtyła. La stessa sera del 18 aprile i cardinali procedono alla prima votazione. Fin dall'inizio viene dato per favorito il cardinale tedesco Joseph Ratzinger. Fino alla sera di sabato 2, Ratzinger è stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Con la morte di un papa, infatti, i responsabili di quasi tutti i dicasteri della curia decadono automaticamente dalle loro cariche. Fino all'elezione di un nuovo papa, il decano del collegio cardinalizio è primus inter pares e presiede il conclave. Lunedì 4 al mattino i vertici della Chiesa si incontrano nella Sala Bologna. Sembra quasi un summit internazionale di ministri. Tra loro molti ancora neppure si conoscono, mentre altri non si vedono da anni. Per prima cosa bisogna predisporre i funerali di Giovanni Paolo II. Poi va fissata la data di inizio del conclave. Eppure è già in questa sala che vengono presi i primi accordi su chi sarà il nuovo Papa. Molti dei 115 cardinali elettori presenti nei giorni a venire avvieranno le prime consultazioni e formuleranno dei programmi. Da 23 anni a questa parte, ogni mattina, il cardinale Joseph Ratzinger ha attraversato indisturbato Piazza San Pietro per raggiungere il suo ufficio. Nulla lasciava supporre che questo anziano signore con la valigetta fosse, dopo il Papa, l'uomo più importante nella Chiesa Cattolica in materia di questioni di fede. Ratzinger non aveva bisogno di guardie del corpo, né d'altronde c'erano folle osannanti ad attenderlo. Eppure Ratzinger ha tracciato in modo decisivo il cammino della Chiesa Cattolica verso il XXI secolo. Ha cominciato a farlo fin dai primi anni 60, durante il Concilio Vaticano II, quando la Basilica di San Pietro si trasformò in una specie di Parlamento di Dio. Roncalli chiama questo tentativo di portare la Chiesa al passo con i tempi un aggiornarsi. I temi proposti da Giovanni XXIII sono piuttosto vaghi. La curia, infatti, teme cambiamenti radicali e riforme di vasta portata. All'inizio dei lavori, il cardinale Joseph Frings di Colonia tiene un discorso ancora oggi considerato di una veemenza inaudita. Frings critica i documenti preparati in precedenza e chiede che i testi religiosi vengano sottoposti ad una approfondita revisione. Fino ad allora nessuno aveva mai osato sfidare con tanta audacia la curia. A Roma, Frings è accompagnato da un piccolo gruppo di consiglieri. Tra loro, un giovane teologo della Baviera, Joseph Ratzinger. Con il cardinale Frings esaminavamo insieme i testi. Lui era quasi cieco. Noi gli leggevamo i testi ad alta voce, discutendoli. Poi, sulla base di queste conversazioni, Io redigevo la bozza dei suoi discorsi. Ci chiedemmo anche quali altri vescovi avremmo dovuto contattare e su quali questioni. Fu così che allacciamo numerosi contatti, in particolare con i cardinali, e con loro riflettemmo su questioni molto importanti. E credo che questi colloqui, dei quali non voglio attribuirmi un particolare merito, ma a cui diedi il mio contributo, portarono alcuni frutti. I temi principali in discussione nella Basilica di San Pietro sono innanzitutto la riforma della liturgia, l'ecumenismo e i rapporti con il mondo non cristiano. Papa Paolo VI, che dopo la morte di Giovanni XXIII presiede l'Assemblea, dà al Concilio la struttura necessaria e lo porta felicemente a termine. La maggior parte dei vescovi apparteneva a una scuola teologica piuttosto antiquata, eppure sentivano che qui c'era qualcosa di vivo, che non significava affatto un tradimento della fede, ma che, al contrario, la rendeva più profonda. Era necessario capirlo, ma anche vagliare in modo giusto cos'era possibile e necessario recuperare nell'incontro con la modernità. E fu fatto molto per raggiungere questo obiettivo. Dopo più di 40 anni dal Concilio, le aspettative di milioni di cattolici alla vigilia del conclave sono puntate su Ratzinger. Per alcuni sarà il prossimo Papa, per altri un'eminenza grigia che con la sua preparazione teologica, con la sua conoscenza della Chiesa di tutto il mondo e soprattutto con le sue relazioni con i cardinali, sarà decisivo per l'esito dell'elezione. Ma chi è Joseph Ratzinger? Josef Ratzinger nasce a Markt Lam Min il 16 aprile del 1927. È un sabato santo. I Ratzinger lasciano Marktl quando Josef ha appena 2 anni. Il padre, un funzionario di polizia, è stato infatti trasferito nella vicina Tittmoning. Figlio di un contadino bavarese, è un cattolico fervente che con la sua fede segna profondamente il figlio minore, Josef. I nostri genitori avevano un carattere talmente diverso che si completavano a vicenda. Nostro padre era un uomo molto razionale, con un'incredibile chiarezza e lungimiranza di giudizio, tali che spesso poteva dare lezioni persino ai professori universitari, oltre che a me. Da lui apprendemmo una fede sobria, ma al tempo stesso molto profonda e seria. Questa famiglia che amava stare insieme, questa famiglia dove si pregava. Il papà del Papa andava a messa 3 volte la domenica. La mamma prendeva i bambini e li accompagnava nei sentieri per finire in una piccola chiesina recitando il rosario. Quindi un ruolo fondamentale della preghiera, la preghiera per stare uniti. La famiglia Ratzinger si trasferisce ancora varie volte. Josef trascorre la sua giovinezza a Aufschlag, nei pressi di Traunstein. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, celebra la sua prima messa insieme al fratello Georg. Inizia così il suo cammino spirituale di fede e apostolato. Dopo aver lavorato per un anno come curato, all'età di 31 anni diventa uno dei professori più giovani della Germania. Insegna teologia dogmatica, prima a Münster e poi a Tubinga, dove deve fare i conti con la rivolta studentesca. Nel 1969 accetta un posto offertogli dall'Università di Ratisbona, di recentissima fondazione, dove l'ambiente accademico si rivela a lui congeniale. Poi, nel 1977, viene chiamato ad un nuovo incarico. Papa Paolo VI lo nomina arcivescovo di Monaco e Frisinga, come successore del cardinale Julius Döpfner. Cooperatores veritatis, collaboratori della verità. È questo il motto episcopale scelto da Ratzinger, un'espressione tratta dalla terza lettera di Giovanni, perché la ricerca della verità, dice, è comune tanto al vescovo che all'accademico. Nell'omelia inaugurale, Ratzinger formula la sua concezione dell'episcopato, nobile e al tempo stesso improntata all'umiltà dell'ufficio. Il vescovo non agisce in nome proprio, bensì è il fiduciario di un altro, di Gesù Cristo e della sua Chiesa. Non è un manager, un capo prescelto, bensì è il rappresentante di un altro di cui si fa garante. Per questo non può cambiare idea a suo piacere, schierandosi una volta da una parte o dall'altra, a seconda di ciò che sul momento gli sembra più opportuno. E neppure deve esporre le sue idee personali. Egli è solo un messo che deve trasmettere un messaggio più grande di lui. Ormai sono diventato una bestia da soma. Così l'ex professore universitario descrive il suo nuovo ufficio. Il Vaticano si aspetta molto da quest'uomo, che ha appena compiuto 50 anni. Dopo sole 4 settimane dalla sua consacrazione a vescovo, Ratzinger viene nominato cardinale. Ma il vescovo deve innanzitutto familiarizzare con la sua diocesi. Nonostante la sua nomina sia stata inaspettata, e non solo per lui, nonostante egli non abbia praticamente alcuna esperienza pastorale e nonostante non faccia mistero che avrebbe preferito rimanere uno studioso, Ratzinger viene accolto calorosamente. A questa accoglienza non è forse estraneo il fatto che è la prima volta in 80 anni che un nativo dell'Alta Baviera torna a presiedere l'arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Nel 1978 i cardinali vengono convocati a Roma per 2 volte nel giro di poche settimane. Dopo Paolo VI, il pontificato di Albino Luciani, che ha scelto il nome di Giovanni Paolo I, durerà solo 33 giorni. È durante questi 2 conclavi che Ratzinger conosce Karol Wojtyła, che inaspettatamente viene eletto Papa. Papa Wojtyła mi convocò la prima volta, se ben ricordo, nell'80, o forse era nel 79. Voleva farmi capo della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che si occupa dei problemi delle università e via dicendo. Gli dissi che consideravo la mia ordinazione a vescovo come una promessa di fedeltà e che non potevo scappar via dopo 2 anni. Lui accettò e disse: vorrà dire che mi rivolgerò a lei più in avanti. E in effetti mi richiamò l'anno seguente e mi disse che il mandato del cardinale Schäfer alla Congregazione per la Dottrina della Fede volgeva al termine e che mi avrebbe voluto lì. Per me era ancora troppo presto, temporeggiai, e per un po' riuscii a rinviare la cosa, anche perché all'epoca c'erano molte questioni da risolvere a Monaco. Inoltre posi anche una condizione. Dissi che in qualità di ex professore avrei voluto continuare a scrivere libri e che non mi sembrava compatibile con un simile incarico. Il pontefice disse che doveva pensarci e chiedere consiglio. Poi però mi disse che si era consultato e che questo non sarebbe stato un ostacolo. A quel punto dovetti rassegnarmi e accettare questo incarico che gli stava così a cuore. Dopo soli 5 anni, Ratzinger lascia Monaco. Da questo momento in poi nessuno tra i cardinali avrà accesso al Papa come Ratzinger, cui è concessa almeno un'udienza privata alla settimana. Per 23 anni Ratzinger e il Papa hanno discusso idee e preparato delibere. Nel 2005 i cardinali elettori sono 117. Tutti, tranne 3, sono stati nominati da Giovanni Paolo II, e 59 di loro dopo l'inizio del nuovo millennio. Solo 3 cardinali hanno preso parte anche ai 2 conclavi del 78 e Ratzinger è uno di loro. Questa fiducia del Papa in Ratzinger è andata avanti fino alla fine, perché per 2 volte il Papa ha respinto le dimissioni di Ratzinger da prefetto del Santo Uffizio, della Congregazione per la Dottrina della Fede. E non perché il Papa pensasse a Ratzinger come futuro probabile Papa, ma soprattutto perché voleva che Ratzinger avesse ancora un ruolo importante nel conclave al momento dell'elezione, sapendolo uomo che nonostante tutto poteva aiutare anche gli altri elettori a scegliere la persona giusta come successore. Anche se Ratzinger non viaggia tanto quanto il Papa, il suo sguardo si spinge ben al di là delle mura del Vaticano. Egli è sempre ben informato sulla situazione della Chiesa in tutte le parti del mondo. 1992. Papa Wojtyła presenta alla stampa internazionale il 2° volume del nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, una summa della dottrina cattolica sulla fede e la morale, valida per tutti i cristiani. Da anni il cardinale Ratzinger sovrintende alla stesura di questo catechismo, il primo ad essere promulgato dal 1566. In quasi 700 pagine, la dottrina morale contiene oltre 28.000 paragrafi. Da principio, alcuni passi, come per esempio il cosiddetto elenco dei peccati, risultano incomprensibili. Anche nella Bibbia, le singole frasi devono essere interpretate solo all'interno dell'intero contesto. La Bibbia non va letta tentando di assolutizzare ogni frase, ma deve essere sempre analizzata nella sua interezza. Questo vale anche in questo caso. Il libro deve essere compreso nella sua totalità e ovviamente nel contesto della Chiesa vivente. È inteso come una presentazione di ciò che la Chiesa cattolica crede e insegna, affinché si sappia che questo è il credo della Chiesa e ci si possa attenere ad esso. E a proposito della lealtà, della fedeltà che che Ratzinger ha sempre dimostrato da prefetto della Congregazione per la dottrina della fede a Giovanni Paolo II, e c'è il fatto di Assisi. Giovanni Paolo II aveva avuto questa grande idea di questa giornata di preghiera, radunando tutte le religioni del mondo che pregassero per la pace ad Assisi, e per anni si è detto che Ratzinger aveva messo i bastoni fra le ruote e che aveva contestato il Papa, che era lui era contrario. E invece anche questo, penso in quello che racconta Don Stanislao nel suo libro, ha detto che è assolutamente falso. Ratzinger è stato fedele anche quella volta lì, non è assolutamente vero, e ha appoggiato il Papa anche in quella circostanza abbastanza difficile, quando molti cardinali anche di curia erano contro il Papa. Presentare al pubblico posizioni impopolari del Vaticano, è questo spesso il ruolo di Ratzinger. Difficilmente dunque egli può aspettarsi l'ampio consenso riscosso dal Papa quando parla a favore della pace o contro la povertà. Ratzinger vuole trovare risposte agli interrogativi del nostro tempo nella fede e nella dottrina. Anche se per molti queste risposte sono difficili da comprendere, come ad esempio quelle sull'aborto, il sacerdozio delle donne e il matrimonio tra omosessuali. Può darsi anche che oggigiorno il linguaggio della Chiesa abbia ormai poco in comune con il linguaggio della vita quotidiana. Concetti come peccato, espiazione, redenzione sono estranei al mondo dei media, che tuttavia informano sulla Chiesa come fanno con altre istituzioni della società. Il punto è che ciò che poi arriva al pubblico spesso ha poco a che fare con quello che il capo della Congregazione per la Dottrina della Fede considera effettivamente come il messaggio centrale. Aprile del 2005 il conclave si tiene come sempre nella Cappella Sistina. Giovanni Paolo II si era augurato che nell'elezione del nuovo Papa anche il capolavoro di Michelangelo parlasse ai cardinali, e anche per Joseph Ratzinger una Chiesa senza arte è inimmaginabile. La Chiesa non va intesa come un'associazione che promulga leggi ed emana decreti. Essa è una comunità di vita, accomunata anche dai momenti di celebrazione, di gioia festosa e di partecipazione al bello. Uno dei suoi compiti è preservare la presenza del bello, che d'altronde può sorgere solo dall'incontro con Dio. L'arte, dice, insieme alla scienza, è il dono più grande fatto da Dio all'umanità. Joseph Ratzinger ha esposto i suoi pensieri in circa 40 libri. Alcuni di essi, come Il sale della terra o L'autobiografia alla mia vita, sono entrati nelle classifiche dei bestseller. Roma, 22 febbraio 2005. Ratzinger presenta Memoria e identità, l'ultimo libro del Papa, ormai gravemente malato. Anche in questa occasione il cardinale deve affrontare l'assalto delle telecamere. Ma chi altri della cerchia vicina a Giovanni Paolo II avrebbe potuto interpretare le sue osservazioni e difenderlo anche contro le critiche meglio di questo bavarese cardinale della curia, professore di teologia e saggista? Nella sua autobiografia, Giovanni Paolo II ha scritto: ringrazio Dio per la presenza e l'aiuto del cardinale Ratzinger, un amico fidato. Negli anni recenti, Ratzinger ha sostituito spesso il Papa anche nei suoi impegni liturgici. Una settimana prima della morte, Giovanni Paolo II ha assegnato le celebrazioni pasquali ai cardinali più eminenti della curia. Ratzinger ha celebrato la liturgia della veglia pasquale in San Pietro, scrivendo inoltre le meditazioni per la Via Crucis del Venerdì Santo, nelle quali ha condannato severamente le trasgressioni morali all'interno della Chiesa stessa. Chi lo ascolta non può che amarlo, perché quello che dice ha una chiarezza impressionante. Lui è un maestro della fede. Si pone la domanda e poi dà la risposta. È bellissimo come riesce a parlare. Le sue udienze sono strapiene. Mai erano state così piene le udienze. Mai Piazza San Pietro per un Angelus era così gremita. Quindi un Papa che con la parola tocca sicuramente i cuori. Venerdì 8 aprile 2005, ore 10. A celebrare la solenne messa funebre per Papa Giovanni Paolo II è il cardinale Ratzinger, per anni amico del defunto pontefice. Per alcune ore, Piazza San Pietro diventa ancora una volta il centro del mondo. Attorno alla bara di Giovanni Paolo II si riuniscono oltre 200 capi di Stato e di governo e oltre 2 milioni di fedeli, giunti da tutte le parti del mondo. E Ratzinger sa trovare le parole giuste per questa vasta assemblea. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì. Mentre parla con parole semplici della vita di Karol Wojtyła, Ratzinger viene ripetutamente interrotto da applausi spontanei. Ci vede, ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre. Noi affidiamo la tua cara anima alla Madre di Dio, tua Madre, che ti ha guidato ogni giorno e ti guiderà adesso alla gloria eterna del suo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Sono state queste le parole conclusive dell'omelia di Ratzinger. Partendo da un punto di vista individuale, personale, egli riesce a comunicare anche una visione della fede che va ben al di là delle cose temporali e che lascia una profonda impressione nel mondo. Giovanni Paolo II è stato un papa missionario, carismatico, e è andato in giro per il mondo ad aprire porte a Cristo, come diceva lui, o forse qualche volta anche a buttare giù queste porte che si opponeva a Cristo, mentre invece Ratzinger, più concentrato sui problemi della Chiesa, ha come avviato un altro tipo di viaggio, cioè un viaggio all'interno della coscienza dell'uomo. E quindi questo viaggio, mentre l'altro è il viaggio in giro per il mondo, questo è un viaggio invece, quello di Ratzinger, all'interno delle coscienze. Perché è lì che soprattutto è cominciata la perdita di Dio, la perdita della fede. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni? Quante correnti ideologiche, quante mode del pensiero. La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde, gettata da un estremo all'altro. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi invece abbiamo un'altra misura, il Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo, adulta e matura, e una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. Ed è questa amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e verità. Nel concistoro ordinario dell'11 febbraio del 2013, Benedetto XVI annuncia la sua rinuncia al ministero di Vescovo di Roma, successore di Pietro. Da quel momento il suo titolo è diventato pontefice emerito, mentre il suo trattamento continua a essere quello di Sua Santità. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.